Tempo di sport di Gigi Garanzini. Non è un pomeriggio facile, credo, perché come sapete da circa tre ore o poco più la notizia si è diffusa intorno alle 11. Stamani intorno alle 8 a Milano è morto Enzo Bearzot e dal mio punto di vista, a cui certamente farà velo un'amicizia trentennale, forse quarantennale, che si era poi consolidata negli ultimi 20 anni, cioè da quando il Veccio era entrato nella riserva. Dal mio punto di vista, se n'è andato un padre della patria, o comunque uno dei pochi universalmente riconosciuto come tale, nonostante la sua fosse semplicemente una patria pallonara, ma invece forse proprio per questo, perché per noi italiani il calcio è qualcosa di sovrasignificante, di assoluto, no? Le 8 del mattino, è stato. Da un lato ha rispettato una cosa che nella sua carriera, a cui nella sua carriera non era mai mancato, il rispetto delle esigenze della stampa. Io questo lo ricordo bene durante la sua carriera, indipendentemente dagli scontri violentissimi che poi c'erano quando si accendeva qualche fuoco, che lui certamente non contribuiva a spegnere, ma questo era il merito della questione. Il rispetto invece per gli orari, per le esigenze che allora erano soltanto scritte e in parte televisiva o radiofonica, e oggi sarebbero, anzi sono completamente diverse, il suo rispetto c'era. Le 8 del mattino è l'ora ideale per consentire a qualsiasi notiziario di qualsiasi ordine e grado di andare in onda e di documentarsi sempre di più nel corso della giornata, e per permettere ai giornali dell'indomani di valorizzare al massimo una notizia del genere. Le 8 del mattino era anche l'ora, questo l'ho ricordato poco fa con una nota buttata giù veramente ai 100 all'ora per il sito del Sole 24 Ore, era anche l'ora in cui lui durante i mondiali di Spagna più o meno riusciva ad andare a dormire, andava a coricarsi un paio d'ore dopo le sue nottate da coyote, no? Che trascorreva a turno con Conti, con Tardelli, con Oriali, con gli altri coyote come lui, che avvertivano la tensione, lo stress, a parte il caldo infernale che c'era in Spagna in quel giugno-luglio dell'82, e allora lui riusciva verso quell'ora ad appisolarsi per un paio d'ore, non di più, perché poi o c'era l'allenamento o c'era la conferenza stampa, e con il cosiddetto silenzio stampa che quell'Italia brevettò e poi tutti hanno imitato, lui ha sempre ricordato che non era un risparmio di tempo, era un aggravio per lui, perché non parlando di giocatori, e lo ricordo bene anche di persona, a lui toccava parlare il triplo, a lui e a Zoff come capitano. Sino all'ultimo l'ho assistito la moglie Luisa, che ha vegliato in questi ultimi mesi, soprattutto in queste ultime settimane decisamente abbastanza difficili. Io stesso, pensate, forse perché era nota questa mia amicizia speciale di cui mi sono sempre onorato e oggi a maggior ragione, con un uomo così, con un galantuomo così, con una persona come Enzo Bearzot, io stesso sto ricevendo da ore condoglianze di ogni genere, come se davvero fosse morto qualcuno della mia famiglia. Devo dire che chi l'ha interpretata a questa maniera non ci è andato molto lontano, così come sta succedendo, a maggior ragione, molto a maggior ragione, per i campioni che Enzo aveva non tanto allevato, perché lui non si è mai arrogato meriti di questo genere, né per Tardelli, né per Conti, né per Paolo Rossi. Per lui erano campioni a prescindere dal suo contributo, ma lui li aveva aggregati, li aveva come dire, contribuiti a crescere, a diventare più maturi. E l'affetto che loro nutrivano per lui a quel tempo, al punto che quasi tutti lo vivevano come un secondo padre, pensate che Dino Zoff, che invece per ragioni anagrafiche distava da lui soltanto 15 anni e quindi avrebbe potuto viverlo come un fratello maggiore, invece Dino lo chiamava mio papà. Ho appena letto una frase che le agenzie hanno battuto di un commento proprio di Zoff: sento un dolore profondo per la perdita di un personaggio straordinario, di un uomo giusto, ma i risultati sono secondari. Essere stato a contatto con un uomo di questo spessore è una cosa che resta per tutta la vita. Poi questo collegamento si è praticamente interrotto perché anche una vecchia quercia come Zoff è stato sopraffatto dall'emozione, come io sto rischiando a ogni secondo, ve ne sarete accorti. E quando gli hanno chiesto che qual era la lezione lasciata da Beerzot, Zoff ha risposto amaro alla sua maniera, ma da grande saggio a sua volta, che un uomo come Beerzot possa aver insegnato qualcosa in questo mondo, io ne dubito, ha detto. Le lacrime di Paolo Rossi, quelle di Bruno Conti, quelle di Antonioni, poi magari sentiremo qualche loro contributo vocale nel corso di questa puntata, che ovviamente è interamente dedicata a Enzo. Adesso per spiriti forti, prima c'è una comunicazione di servizio, che è questa: la famiglia ha deciso di rispettare le sue volontà, e dato che i rapporti con la famiglia erano tali esattamente come con la sua squadra, e cioè la sua seconda famiglia, con la sua famiglia originale, Luisa, Cinzia, Glauco, il genero, i nipoti, a cominciare da Rodolfo, il più amato, i rapporti erano tali che non c'era bisogno di lasciare nulla di scritto, di lasciare volontà messe su carta, bastava parlare. Enzo ha chiesto di essere ricordato in maniera sobria, e quindi ha chiesto di evitare funerali pubblici o di evitare, ma l'ha chiesto secondo me un po' perché questo faceva parte della sua natura, e chiunque l'abbia conosciuto e magari apprezzato anche per questa sua sobrietà, direi che tutto questo non solo gli somiglia molto, ma ricordo che in uno degli ultimi incontri, diciamo poche settimane fa, sentendo che il tempo stava per scadere a breve o a medio termine, ricordo che mi disse: beh, credo proprio che un applauso al mio funerale non lo sopporterei. Allora noi adesso cominciamo ad ascoltare una serie di passaggi che lui registrò in questo studio da cui vi sto trasmettendo adesso, poco più di 3 anni fa. Prima andiamo su una canzone che è I'm Coming Virginia di Big Spiderbeck. Lui era un grande jazzista, un grande appassionato di jazz, e quando nel 50 aveva fatto una tournée negli Stati Uniti dopo post campionato con la maglia dell'Inter, giocò 3 anni nell'Inter, lui i primi 3 della sua carriera da professionista dopo il Pro Gorizia, lui era andato in America e aveva letteralmente razziato dischi di ogni genere, oltre a tante jam session dal vivo, perché era un grande appassionato di jazz. Sentiamo questo frammento. Sonore preferite di Enzo Beerzot. Ricordo che quando scrivemmo insieme un libro tanti anni fa, era il 97, in occasione dei suoi 70 anni, il libro si chiamava, non credo sia più in circolazione, si chiamava Il romanzo del vecio. Preparandolo e conversando spesso e volentieri sul giradischi di casa sua c'era proprio a ricordo di quel lontanissimo viaggio americano, c'era questa straordinaria musica che lui amava. Intervallo, strade. Beh, si susseguono le partecipazioni, i commenti. Per esempio, è molto bello questo che è pratico, no? Di Ilario Castagnier, che ricorda: dobbiamo essere grati a Enzo Bearzot non solo per quello che ha fatto e ottenuto sul campo, ma anche perché se oggi gli allenatori a fine carriera possono avere una pensione dignitosa, lo devono anche a lui. E Castagnier ricorda quando era vicepresidente dell'associazione allenatori, raccolse un suggerimento proprio dell'allora CT campione fresco campione del mondo per tutelare la categoria, e ricordo quanto si batté per far versare equi contributi previdenziali. Stiamo parlando di un'epoca in cui i guadagni degli allenatori, soprattutto degli allenatori non di primissima fila, erano molto ma molto lontani da quello di oggi, da quelli di oggi. Torniamo verso quei tempi. Enzo Bearzot venne in questo studio, ve lo dicevo prima, il 26 settembre del... Non era la prima volta, fu l'ultima purtroppo. Il 26 settembre del 2007, per festeggiare in compagnia vostra, i suoi 80 anni che compiva in quel giorno. E allora Franco Piantanida, frugando stamattina in archivio e sollevandomi perlomeno dall'aspetto organizzativo di oggi, perché non sarebbe stato semplicissimo andare in onda, ha trovato alcuni dei migliori frammenti di quella conversazione di allora. Sentiamo il primo sull'82. Ma scusa, ma quando la squadra gioca male, vuoi mica che l'allenatore dica che si giochi bene? Cerca di portare, di aiutare, di vedere un po', di migliorare. Ma nessuno dirà abbiamo giocato bene una partita, anche le prime partite che le abbiamo giocate bene, forse la prima, sì. Ma le altre due c'era da spararsi. Ma io non posso spararmi, devo cercare di dare forza alla squadra, di unirla, certo. Infatti siamo venuti fuori dopo. Ma perché? Perché era la squadra del 78 che è venuta fuori, anche là è venuta fuori con difficoltà. Che è rimasta? Sì, cambiato tua... 1-2, ma c'era... No, ma te lo dire che è rimasta quella più nel tuo cuore, forse, no? Sì, paradossalmente, certo, quella del 78, sì, e non quella dell'82. La prima mia esperienza, il discorso. Tuo primo amore azzurro, la prima costruzione. Questo è un frammento, ma credo che tutti però contengano questa cifra, che danno una perfetta idea, non tanto del rapporto che c'era tra Bearzot e me, che questo è molto secondario, quanto del suo modo di conversare, cioè della... In questo caso è passione calcistica, poi c'erano altre conversazioni tra noi che non andavano in onda in diretta evidentemente, che riguardavano invece la passione civile. Peccato queste non potervele trasmettere, perché avreste un'idea grosso modo di quello che Bearzot pensava di alcuni contemporanei illustri e della società di oggi in generale. Ma per restare al calcio, non so se avete notato la passione con cui ottantenne, e a distanza di 20 anni dai fatti cosiddetti, con quale passione si accalora, si infiamma e racconta le cose, le rivive come se fossero accadute il giorno prima e come se ancora lo riguardassero da vicino. Un altro frammento, la sua vita con Paron Rocco, ricordando che Bearzot si è sempre giustamente considerato un allievo di Rocco per due buone ragioni. La prima è che Rocco allenò il Torino tra il 63 e il 67, e nelle prime due stagioni Bearzot era ancora capitano. Poi, una volta che Bearzot a 36 anni smise col calcio, restò nei ranghi tecnici del Torino, convinto da Paron Rocco a provare a vedere come se la sarebbe cavata e se gli sarebbe piaciuta la sua questo sbocco professionale. Sentiamo. Il Paron è stato un grande maestro di conduzione di vita quotidiana. Sì. Poi in campo però il nostro rapporto era notevole. Sì, sì, certo. L'apporto dei vecchi, capito? Calciatori, capito? Trasformatosi in giocatori moderni nei confronti dei suoi tempi. Certo. No? È stato un periodo molto importante della mia vita, anche la vita insieme al Paron, no? Per come interpreta la sua giornata sportiva, no? Le sue arrabbiature, la pace fatta improvvisamente di fronte a un bel bicchiere di rosso, capito? Beh, insomma, poi in altre circostanze aveva approfondito questo rapporto per il Paron, ma soprattutto un giorno mi raccontò, facendomela cadere un po' dall'alto, credo per il libro, insomma, o forse per una delle tante chiacchierate o interviste, che ci furono nel nostro rapporto, io gli chiesi come, cioè in che modo Rocco l'aveva poi materialmente convinto, e lui mi disse come vuoi che mi si sia rivolto. Prima mi ha fatto una lunga circonlocuzione e poi mi ha detto una cosa alzando un pochino il tono: ciò brutto mona, ma alla fin insomma ti convinci o non ti convinci a fare quello che ti dico? E così era nata questa avventura professionale, che poi a Torino durò molto poco, ma durò molto poco perché nel frattempo Berzotto era stato adocchiato. Io sto saltando da questi contributi alla ricostruzione della sua vita professionale. Era stato adocchiato da un certo Artemio Franchi, e la cosa non è mai molto casuale, perché se Berzotto è stato un pezzo unico della storia del calcio italiano, non c'è alcun dubbio che il più grande dirigente della storia calcistica italiana sia stato Artemio Franchi. Artemio Franchi adocchiò questo giovane allenatore, ne sentì parlare, lo volle conoscere, scoprì che sì, purtroppo non era riuscito per ragioni calcistiche a laurearsi in lettere come avrebbe voluto, e si sarebbe poi preso la rivincita con la figlia Cinzia, che insegna alla Cattolica di Milano ed è una grecista insigne in particolare, ma che in ogni caso aveva la sua brava maturità classica, Enzo, che le sue letture erano di un certo spessore, che i grandi classici, a cominciare da Orazio, erano forse la sua lettura preferita. E insomma, da lì fu colpito, incuriosito, poi lo mise alla prova, lo inserì nei ranghi federali azzurri e dall'Under 23 in avanti cominciò lentamente questo cursus honorum. Vi dicevo della passione civile di Berzotto e della sua capacità di indignazione. Lui aveva il galleggiante molto basso, no? Cioè, ciascuno di noi ce l'ha una certa altezza e si indigna mano a mano che il livello di intollerabilità sale. Beh, Berzotto era proprio bassissimo. Sentite 3 anni fa quanto gli dava noia questa pubblicità, che non so se c'è ancora, forse no, ma che andava di gran moda allora. Ma la vita is now non mi va mica bene. No, non mi va mica bene. No, ma lo sento. Ma persino in Parlamento si dovrebbe omettere questa pubblicità qui. Che non è a favore dei giovani. No. Come la vita adesso, bravi. Infatti. La vita è anche domani, non soltanto ieri. È qualcosa di ieri e poi domani, non adesso. A proposito di capacità e indignazione. Senti, per cui anche nel calcio la vita è qualcosa che è del passato, non è da tutta da buttare via, vedo. Qualcosa del presente bisogna buttare via, parecchio del presente, no? E attraverso un po' del passato, il meglio del presente crea il futuro. Io chiedo scusa alla maggioranza di chi sta continuando a inondare questo display di SMS che arrivano in tempo reale, ma sinceramente non vorrei che la voce mi si spezzasse leggendoli, allora devo prendere un pochino di rincorsa, no? per seguire per seguire il filo. Volete un'altra? Poi sentiamo Paolo Rossi, ma anche lì mi devo preparare un tantino. Volete sentire un altro frammento di indignazione civile di Berzotto? Beh, una cosa che lui ha sempre raccontato è che non era mai riuscito ad andare oltre ai fischi all'inno argentino nel 90, la finale mondiale Germania-Argentina, per la buona, anzi pessima ragione che l'Argentina aveva eliminato l'Italia. A distanza di, ripeto, siamo nel 2007, a distanza di 17 anni, sentite come rivive quella vergogna. L'inno nazionale è una cosa sacra, non si fischia mai. Certo. Si fischia dopo, c'è tanto tempo per fischiare. Se, come hai fatto a conservare negli anni questa tua capacità di indignarti? Ti sei indignato adesso ricordando questo episodio? Cioè lo si è visto, sai, proprio dalla tua espressione? Ti ho sempre detto che le cose positive sono come una dieta che ti accarezza il volto, ma le cose negative sono ferite, anche se non sono ferite vere fisiche, ma sono anche ferite morali. Sì. Non le dimenticherò mai quelle. Quelle ti segnano la vita, qualsiasi tipo di ferita, anche morale, anche un'offesa è una ferita che ti rimane lì. E questo era un altro dei suoi capisaldi. No, stavo leggendo un messaggio che mi ha leggermente scosso. Dice: ma è sempre il caso di farci entrare anche in questo momento con le sue personali opinabilissime idee politiche? Io sfido chiunque a dire che ho espresso in questo momento un'idea politica, o tantomeno di aver tradito la memoria di Berzotto, che è sacra da questo punto di vista. Credo di aver detto che Berzotto le sue idee le aveva, e la sua capacità di indignarsi era ancora più alta nella vita civile, ho detto, che non in quella sportiva. Quindi rimanderei al mittente l'unica per ora osservazione di questo idiota che ha scritto. Sentiamo Paolo Rossi, sentiamo che cosa ha detto stamane Paolo Rossi. Lui devo veramente tantissimo, se non tutto. Mi piace ricordarlo con l'immagine di gioia di quando gli abbiamo fatto fare il giro d'onore alla fine del mondiale dell'82, sprizzava felicità da tutti i pori. Per lui era il raggiungimento di un grandissimo risultato meritato, di una cosa che ci aveva creduto da sempre. E devo dire che noi nei suoi confronti, noi calciatori, noi giocatori, nei confronti di lui abbiamo sempre dato il 200%, perché il suo modo di fare, il suo modo di volerci bene era talmente grande. Poi lui era una persona onesta, era una persona genuina, era una persona che lo contraddistingueva proprio per questi valori. Era un friulano tutto d'un pezzo, insomma, e quindi... E poi è stato un grande allenatore, perché bisogna ricordarlo, insomma, e oltretutto un uomo anche di grande cultura, perché con lui si parlava di tutto. Lui amava parlare di storia, di arte, di quadri, di tutto in generale. Veramente se ne va una persona, un uomo che oggi non c'è più, cioè un allenatore così, un uomo di grande di calcio, un gran uomo di sport, una grandissima persona. Con Di Paolo Rossi poi vi racconterò, adesso è ora di arrivare ai mercati, vi racconterò come Berzot coltivò Paolo Rossi durante la sua lunga squalifica e attraverso quale gesto in particolare, a cui per puro caso cronistico assistetti, lo convinse a non mollare quando Paolo era sull'orlo di farlo. Un altro messaggio, un Torino Club che scrive: ciao Vecio, cuore granata, e ci prende in pieno, perché Berzot era rimasto Berzot si è sempre considerato un vecchio cuore azzurro, innanzitutto perché questo era stato lo sbocco professionale della sua carriera, quindi professionale, ma sentimentalmente lui era rimasto legato al Catania, con cui aveva ottenuto la prima storica promozione in Serie A da mediano. Era rimasto legato all'Inter, la sua prima squadra professionista dal 48 al 51 a Milano, ma soprattutto ai 10 anni in maglia granata del Torino, di cui gli ultimi 7 da capitano. Intervallo per i mercati. Si era detto, se non ricordo male, di ripartire da Paolo Rossi. Faccio un po' di fatica oggi a tenere dietro tutto, però in realtà vorrei partire da Vittorio Pozzo, perché c'è questa coincidenza incredibile. Cioè Vittorio Pozzo, che è il padre della patria calcistica italiana dell'anteguerra, era morto il 21 dicembre, esattamente come oggi Enzo Berzot, padre della patria calcistica del dopoguerra. Pozzo morì nel 68, più o meno all'età, grosso modo all'età di Berzot, se non ricordo, e oggi a distanza di 42 anni è toccato a Berzot. E, insomma, 3 titoli mondiali dell'Italia su 4, non lo so, forse andrebbero festeggiati o andrebbero ricordati da ora in poi, il giorno 21 di dicembre. Paolo Rossi, qualcuno lo ricorderà, era stato coinvolto molto pesantemente nello scandalo scommesse del 1980. E dopo il processo sportivo l'aveva condannato a 2 anni di squalifica. Il secondo di questi 2 anni lo acquistò la Juventus dal Perugia in vista anzi in realtà lui era di proprietà del Nerossi Vicenza, e al Perugia dove era stato squalificato era andato in prestito, ma in ogni caso la Juventus lo volle in previsione del ritorno all'attività, che sarebbe poi avvenuto ai primi di maggio, due o tre partite ufficiali abbastanza stentate, ma bastarono a Berzot per convincersi a puntare in ogni caso su di lui per il Mondiale 82. Non tanto perché in quel momento Rossi fosse convincente, lo era molto di più Pruzzo, che era il capocannoniere del campionato con la maglia della Roma, quanto perché Berzot ricordava innanzitutto la grandezza di Rossi al Mondiale argentino, e poi perché aveva una certa sua idea tattica oltre che tecnica di squadra. E nel corso di una, insomma, allora a Torino, dove l'Italia era in ritiro in vista di credo Italia-Grecia, che era l'ultima partita di qualificazione ai mondiali, nel novembre o dicembre dell'81, attraversando il campo dopo un allenamento, il campo di allenamento davanti al comunale, c'erano i ragazzi della Juventus che si stavano allenando, e tra loro c'era Paolo Rossi, perché stava, per l'appunto, mantenendosi in esercizio così, aveva ancora 4 mesi di squalifica. Noi cronisti ovviamente stavamo seguendo Bearzot, chiacchierando con lui, a un certo punto vedemmo che puntò Paolo Rossi, ci fece un cenno molto, molto delicato, molto educato, come dire: lasciatemi a distanza, lasciate che vada a dirgli due parole. Ci fermammo e lui mi ricordo che si parlarono per pochissimi minuti fitto fitto. Paolo Rossi era un po' ingrassato e che alla fine si sentì udibilmente, ma forse invece lo disse davvero con un tono un po' più alto per farlo sentire, gli disse: ciao Paolo, mi raccomando con sti fianchi da balia, gli disse, perché in effetti qualche chilotto Paolino Rossi l'aveva messo su. Anche così nacque, anche da lì nacque il miracolo di Spagna 82. Torniamo a sentire la voce di Enzo Bearzot, che parla di una cosa a cui teneva moltissimo, anzi era la cosa a cui sinceramente teneva più di tutto, soprattutto negli ultimi anni, cioè il fatto che avesse giocato 422 partite tra Serie A e Serie B, quasi tutte in Serie A tra l'altro, e quindi il fatto di essere stato un signor mediano in carriera per 18-19 anni, e il fatto di essere invece nella memoria collettiva soltanto per aver occupato, sia pure insomma in un modo discreto, la panchina dell'Italia, tutto sommato col passare degli anni un po' di noia gliela dava. Verso il calciatore, comunque, nella divisione nazionale A o B ne ho fatto 422, che insomma, ma quelle che abbiamo fatto noi Non erano partite di 11 minuti, capito? Perché si giocava in 11, certo. Ma si rimaneva in 10, sono partite complete. Certo. Oggi è facile anche ottenere un numero immenso di partite attraverso le presenze anche minime. No? Sì, questo. Si doveva giocare tutta intera. No, io sono stato innamorato del calcio, molto, un po' meno adesso, dire la verità, perché ho avuto dei problemi in questi ultimi anni che hanno spento un po' il mio entusiasmo, tanto che nelle partite ci vado molto poco, anche perché quasi quasi dopo quello che è successo ultimamente quasi quasi non credi che il risultato in campo sia il risultato giusto. E quando cominci ad avere questo timore, questo dubbio, qualcosa si spegne dentro di te. Me immagino. Io ho avuto una grande battaglia anche in famiglia, tu sai che il papà mi ha sempre combattuto, non ha mai voluto che io facessi il calciatore. E io l'ho fatto quando sono venuto all'Inter, era pieno di ambizioni, e ho sopportato tutto, sono andato a Catania, l'ho portato in Asso, sono tornato al Torino, all'Inter, sì, che pian piano le mie 422 le ho fatte. Lei mi ho giocato fino a 37 anni capitano del Toro, anche quando c'era l'Overbacher. Sì, che non è un titolo che te lo danno gratuitamente. Tu eri un mediano, ma soprattutto, insomma, mi sembra di ricordare, era una rotella di una tattica, quindi un giocatore tattico molto, sì, e probabilmente infatti forse mi amava per quello, ma non è che giocassi solo in difesa, perché le mie volate sulle ali le facevo mentre in mezzo coperto da Ciccio Sentimenti, il quale era un mediano juventino trasformatosi in mediano granata notevole. Un giocatore tattico, probabilmente. Diciamo che Sentimenti aveva sbagliato indirizzo. E poi la conversazione evidentemente andava avanti, ma a queste quattro non toccategli, non potevate toccargli al passato, purtroppo, queste 422 partite, soprattutto l'avete sentito, quelle poi giocate da capitano del Torino. C'è un ascoltatore, no, per la verità vorrebbero essere tanti gli ascoltatori in onda, ma io insomma oggi vorrei, poi domani ci penseremo, ma vorrei ascoltare oggi, riascoltare soprattutto questa voce straordinaria di un, sia pure già insomma, usurato un pochino dal tempo, nel giorno dei suoi felici, allora davvero 80 anni. Dicevo di però qualcuno chiede di intervenire, allora sentiamo per esempio da Monza che ha chiamato Giampaolo. Pronto? Dica, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno. Sarò velocissimo. Per chi come me è nato nel 63 e ha incominciato a guidare il calcio nel 78-82, oggi è innegabile che si sente una grossa perdita di una persona che era una persona, un uomo. Volevo semplicemente dirgli grazie, perché come me si è appassionato al calcio e ricorda come il mondiale vinto quello dell'82, non quello del 2006. E poi volevo chiederle se lei ha un particolare aneddoto, ricordo, che di vivere con noi ascoltatori, su che ci possa ancora di più aiutare, se serve, a capire che persona era dietro tutto qui. Ma guardi, e grazie mille per questa trasmissione. Grazie a lei Giampaolo, è assolutamente dedicata a Enzo, e quindi è, e quindi adesso lei mi mette un po' in difficoltà, perché il dovere di non violare la privacy da ora in poi lo sentirò ancora più forte. Però non so, mi viene in mente per esempio la disponibilità dietro a questa scorza burbera e dietro a questo, a questa, non dico scostante, ma altera, no? Allora, lui era altero, ma l'alterigia non sapeva cosa fosse, anzi, come capita per l'appunto ai galantuomini, no? E quindi c'era sempre, da parte di chi lo voleva avvicinare, cercava di avvicinarlo, c'era sempre un po' di timore iniziale, perché, ripeto, bisognava passare oltre questa scorza. Dopodiché trovavano una persona diversa da quella che si immaginavano. L'ultimo esempio è di 3 mesi fa, non di più. Chi lo riconosceva per strada, insomma, e negli ultimi tempi, non dico che fosse impossibile, ma cominciava a essere un po' complicato. Comunque, nel corso di una breve passeggiata, diciamo a fine estate, lo riconobbe una persona che stava passando, sentimmo lo scalpiccio, Enzo viaggiava col bastone, che ne andavamo pianino, sentimmo lo scalpiccio alle spalle, finché questo signore prese la rincorsa e dice: ma io posso disturbare per chiedere al grande Enzo Berzor, che nel frattempo ha riconosciuto, di firmarmi questo foglietto di carta per mio nipote? E allora Enzo non solo lo fece, ma lo ringraziò per questo regalo che gli faceva, mollò il bastone, insomma, si appoggiò in qualche maniera e non si limitò a uno scarabocchio, perché lui non ha mai fatto scarabocchio in vita sua. Volle sapere il nome del nipote, gli scrisse una frase dedicandogliela e lo salutò con una stretta di mano. Questo non credo ci sia nulla di particolarmente privato, ed è un ricordo lusinghiero, ma di quelli veri, di un galantuomo, ripeto, come il Vecio. Se poi me ne verrà qualcuno magari leggermente più fumantino o di segno diverso, mi sta venendo, ma insomma, magari questo è un ricordo storico addirittura, e però, visto che sta per arrivare l'intervallo per le strade, magari ci penso un minuto. Sentiamo come va su strada e autostrada. Beh, figuratevi se Nicola Filippone non trovava qualcosa di bearzotiano anche per il giorno 21 dicembre. Ascoltiamo. Sembra ieri. 21 dicembre 1977. A Liegi l'Italia batte di misura il Belgio nella prima amichevole di preparazione ai mondiali argentini. Decide un gol di Antognoni che batte l'ottimo Pfaff su punizione a un quarto d'ora dal termine. Bearzot affida il ruolo di libero a Scirea, che da questo momento diventa titolare inamovibile, e fa esordire in attacco il talento del Vicenza Paolo Rossi, che va a far coppia col Granata Pulici. Rossi viene preferito a un altro bomber emergente, il genoano Pruzzo, una situazione che sarà ricorrente durante la gestione Bearzot. In campo a Liegi ci sono 5 elementi della squadra che 4 anni e mezzo più tardi si laureerà campione del mondo in Spagna: Antognoni, Gentile, Rossi, Scirea e Tardelli. Una delle partite sperimentali più importanti, forse la più importante, lui l'ha sempre ricordata così, nel cammino verso l'Argentina. Avete sentito che il gol di quell'amichevole fu segnato da Antognoni. Antognoni stamane ha preso la notizia, ha parlato di Enzo Bearzot con la nostra Adriana Fracchia. È un uomo, almeno nei miei confronti, eccezionale, perché mi ha fatto giocare 10 anni in nazionale, quindi a volte anche contro un po' le scelte che facevano altre persone, tra cui la stampa. Comunque, un uomo a cui sono particolarmente legato, ma non solo per questo motivo. Com'era come mister? È un mister, diciamo, moderno, perché se noi consideriamo che si giocava con due punte e due mezze punte, perché prima si diceva dei difensivisti, altri invece assolutamente, perché la squadra che schierava in campo era sempre offensiva, molto offensiva. Quindi diciamo le caratteristiche erano queste. Di quel campionato dell'82, quel campionato del mondo mitico che tutti ricordiamo. Credo un merito particolare vada a lui per la coesione, per il gruppo che aveva creato. A volte anche con i giocatori validi non si vince, invece lui è riuscito a plasmare questo gruppo nel modo migliore, proprio per le caratteristiche che ho detto prima. Sono tanti i frammenti da ascoltare, e poi a te puoi esporre avanti anche domani, se è per quello, ma insomma in questa il meglio, o comunque gran parte del meglio, vorrei riuscire a farcelo stare oggi. Allora, questo è un rarissimo frammento di 9 secondi, e peccato non averlo trovato quel giorno in cui venne qua a festeggiare gli 80 anni. È un breve commento di Beadot calciatore alla fine di una partita, e con tutta la buona volontà non siamo riusciti a ricostruire alla fine di quale partita, però proviamo a sentire lo stesso. La squadra di Gettiani mi è apparsa una squadra veloce, briosa, piena di foga, però siccome noi abbiamo segnato subito, loro sono sensibilmente calati. Chissà se, ripeto, può essere Catania, può essere Inter, può essere Torino. Io credo più Torino, perché insomma il periodo è stato più lungo, perché forse ai tempi dell'Inter e del Catania non so nemmeno se c'erano le interviste di pre e di post partito, ho qualche dubbio. Dal 55 in poi, quando arrivò al Torino, poco alla volta anche i microfoni presero piede. Franca, leggo bene, ha chiamato da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io non sono una tifosa di calcio, però ascolto la sua trasmissione tutti i giorni. Mm-hmm. Perché la sento anche molto distaccato rispetto, come dire. Beh, oggi tanto distaccato no. No, oggi lei non è distaccato. E le telefonavo proprio per questo. Io ricordo Bearzot solo per un motivo. E quando lo sentivo nominare, quando l'ho sentito stamattina alla radio che era mancato, mi è venuta negli occhi. E nelle orecchie il pomeriggio che l'Italia ha vinto il campionato del mondo. Io ero incinta di 6 mesi, era un pomeriggio caldissimo, io ho 5 fratelli maschi, facevano un baccano da matti. Mi sono fatta una passeggiata in mezzo al paesino dove abitavo, sentivo le televisioni e tutti i commenti entusiasti, e camminavo sulle scritte Viva l'Italia, piuttosto che poi sono rimasti campioni del mondo e così via. Ecco, io Bearzot, quando lo sentivo nominare, lo vedevo, lo associavo a questo pomeriggio nel quale da sola con mio figlio in grembo in arrivo sentivo quello che arrivava dalle finestre degli abitanti del mio paese. Grazie Franca, grazie. Mi fa venire in mente che Bearzot, non incinto ovviamente, ma insomma visse qualcosa di simile quando aveva, dunque 27-38, quando aveva 11 anni, quindi parliamo di un ricordo completamente diverso, però lui mi ha raccontato una volta, ma con molta passione e partecipazione, che la finale mondiale del 38, quella vinta 4-2 a Parigi sull'Ungheria con due gol di Piole, due di Colaussi, lui allora era in collegio in Friuli, in questo momento non ricordo la località ma mi tornerà in mente, era in collegio in Friuli e la radiocronaca pomeridiana di Carosio aveva invaso c'era una radio a tutto volume in piazza con i diffusori, con l'altoparlante, ed era arrivata persino aveva invaso il cortile di questo collegio, in cui forse, non mi pare di ricordare, mi avesse detto che la radiocronaca non gliela lasciavano sentire, e quello era un paese, se non era il paese di Colaussi era comunque molto molto vicino, per cui insomma la suggestione del suo racconto si è incrociata con quella che ricordo di quell'epoca. Questo è un altro frammento storico, no? Perché questo è un audio ambientale, credo, sull'aereo di Pertini che tornava da Madrid, che riportava in patria l'indomani mattina del 3-1 alla Germania, la nazionale campione del mondo, e con la celeberrima partita a scopa Bearzot-Causio contro Pertini-Zoff. Ha giocato male Berzo. No Berzo, lo faceva lui il 7. Devo lasciarlo. Ma devo prendere il naso. Qualcuno stamattina, ho sentito un Marcord su questa cosa, ha parlato di briscola, era uno scopone, era rigorosamente uno scopone. Eccolo, era Cividale quel posto, era proprio Cividale. Ho l'impressione che l'ascoltatore che ovviamente mi ha aiutato in tempo reale, ho l'impressione che ci abbia preso, anche se non ci scommetterei. Pensate che l'ho anche scritto in un libro, ma in questo momento la memoria mi sta un tantinello tradendo. La lezione di Bearzot non sì, ha detto amaramente Zoff prima che se parliamo di lezione civile, possiamo forse lasciar perdere. Se parliamo di lezione calcistica, può essere stata vista in varie maniere, può essere stata in parte disattesa in certi momenti, ma non è passata invano. Soprattutto quella che riguarda l'interpretazione morale, etica, ma anche di dignità del rango e del ruolo. Lo disse molto bene Prandelli il giorno del suo insediamento quest'estate, dopo la figuraccia degli italiani tutti in Sudafrica, Prandelli nel suo discorso di insediamento azzurro. Per quanto riguarda un pensiero al CT, io ho comunque una memoria storica dell'82, quindi Enzo Bearzot è stato ed è sarà comunque per me un riferimento straordinario, perché in quella nazionale c'erano molti miei compagni di squadra. Poi mi è piaciuto molto il fatto che nel momento che ha deciso di staccare con la nazionale ha staccato veramente, quindi grandi complimenti a Bearzot. Federico ha chiamato dalla provincia d'Ancona, buongiorno. Buongiorno, in realtà sono in autostrada, ma sì. Provincia di Ancona. No, la chiamo perché volevo raccontare un breve episodio che mi è successo nel lontano 82, quando ero un bambino, avevo 7 anni, e la nazionale italiana, prima di partire per la meravigliosa esperienza spagnola, si era allenata ad Alassio, perché ancora non esisteva Coverciano. Come no, verissimo. E la festa di addio è stata fatta a casa mia, perché era la casa un po' rappresentativa di Alassio, e io ho questo ricordo della nazionale, in particolare di una foto che ho in braccio a Bearzot, che riporto sempre una foto, sembrava un po' di essere in braccio a un nonno. E niente, un ricordo di Bearzot, della nazionale, come dei ricordi di bambino che ti restano, che ti porti sempre nel cuore, che adesso mancherà un po' di più. Grazie Federico. In effetti quell'Italia si preparò, si acclimatò, diciamo, per, se non ricordo male, 3 settimane buone sulle alture di Alassio, in un posto che si chiamava la Puerta del Sol. Mi è tornato in mente adesso, leggendo un'agenzia, in cui c'è il cordoglio di Carlo De Gaudio, che è stato il capo missione, il capo delegazione di quella Italia campione del mondo dell'82, che è un signore napoletano ormai non più giovanissimo, che credo avesse visto Bearzot l'ultima volta per i suoi 70 anni in una festa che organizzammo a Milano con tutti i campioni del mondo dell'82, con ancora vivo allora il presidente Sordillo, in un posto di Milano per festeggiare l'uscita del nostro libro, quello di Bearzot e mio. Mi pare siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, che vorrei chiudere con poche note della canzone preferita di Enzo Bearzot, I'm Coming Virginia. Franco Piantanida in redazione, in studio, in regia, e alle tastiere c'era Fabio Cantadori. Su queste note della canzone più cara a Enzo Bearzot, appuntamento a domani.